quante spunte vedete, lo uso a me a voi. Ma è molto cattivo, scatta. Gare, almeno questo. Spiego qualsiasi cosa, non era casa mia, quindi. Spero che ne sia uscito vivo, perché l'ultima volta che ha carezzato il tuo gatto porta ancora i segni. Puoi vedere anche nei film che per amore non puoi morire.